Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Uno degli episodi più spiacevoli che possono capitare nella vita è vedersi rubato il portafoglio e utilizzate le proprie carte di credito. Per ridurre al minimo la possibilità che questo accada, si moltiplicano oggi le password, i codici di sicurezza e così via. Una delle possibilità di cui si discute da tempo invece è quella di rendere possibile l'uso di questi oggetti solo al proprietario o a un ristretto numero di utenti sulla base di alcune loro caratteristiche fisiche, come l'impronta digitale, il tono della voce, la mappa della retina, la forma del viso. Si parla di misure biometriche. In realtà tutto questo è più facile da dire che da fare. Si pongono infatti non pochi problemi. Intanto bisogna che il sistema sia in grado di riconoscere e leggere queste caratteristiche. Poi ci sono problemi di riservatezza. Per esempio, io non sarei disposto a depositare in qualche server al di fuori del mio controllo la mia impronta digitale oppure la mia mappa della retina. Però la strada è quella della misura biometrica e poche settimane fa a Parigi è stata presentata la prima smart card biometrica del mondo, sviluppata da Cardtech, un'impresa italiana nata 8 anni fa proprio con questo obiettivo, a partire da alcuni brevetti. Ne parliamo con Enrico Accettola, vicepresidente e cofondatore di Cardtech. Buonasera Accettola. Buonasera Maurizio. Allora, senta, mi descriva subito un esempio, un caso pratico di utilizzo di questa carta. Praticamente, quando ci rechiamo a effettuare un pagamento al ristorante, in un negozio, piuttosto che anche addirittura dalla nostra postazione di casa, anziché utilizzare la carta e aspettarci la richiesta di un PIN o la firma sulla ricevuta, basterà passare il nostro dito e quindi utilizzare il lettore biometrico incorporato nella nostra carta per effettuare la verifica del possessore della carta stessa e quindi effettuare il pagamento. Cioè questa carta è come se fosse spenta, anche il chip quindi non funziona, non risponde, se non viene attivata prima da una strisciata del dito del proprietario o di una delle persone abilitate a usarla. Esattamente, noi quando andremo o in banca o in comune a farci fare il nuovo documento di identità o la nuova carta di credito, potremmo richiedere la nostra carta, la nostra tecnologia, verranno memorizzate all'interno della carta i dati biometrici e a quel punto la carta viene abilitata solo ed esclusivamente dalla persona che è stata memorizzata precedentemente lì dentro. Ecco, senta, appunto, veniamo all'aspetto della riservatezza, perché questo dato così sensibile, l'impronta digitale, dove si troverà? È possibile che qualcuno poi lo rubi? No. Allora, le spiego, uno dei nostri, diciamo, lavori in 8 anni per riuscire a tutelare questo è stato proprio il brevettare la memorizzazione dell'impronta digitale direttamente sulla carta e non su nessun'altra apparecchiatura, quindi non necessitiamo di lasciare la nostra impronta digitale a nessun server, a nessun ente che la gestisca. Anche perché, come ha detto bene lei, anch'io non lascerei la mia impronta digitale in gestione a nessuno. Ecco, per far capire, questo meccanismo è lo stesso del bancomat, cioè quando noi mettiamo il PIN usando un bancomat, in realtà quel PIN non, la nostra banca non lo conosce, lo conosce solo la carta stessa. Esatto. E noi, solo che non può essere estratto a forza dalla carta, può essere estratto a forza dal proprietario, diciamo con metodi brutali. Bravissimo. Forse. È ma questo nello stesso identico modo viene memorizzato all'interno della nostra carta il nostro dato biometrico, cioè la nostra impronta digitale, che poi l'utente potrà scegliere se mettere un dito solo, due dita, piuttosto che un parente, e in modo da poterla fare utilizzare anche in famiglia. Però di certo il dato biometrico viene memorizzato all'interno del nostro documento e non viene rilasciato a nessuno. E non può essere neanche estratto, diciamo, con tecniche di hacking sostanzialmente. No, nella maniera. Perché c'è proprio una protezione fisica, queste sono robe comuni a tutti questi, diciamo, sistemi di protezione. Senta, voi siete stati i primi al mondo, come dicevo, a riuscire a mettere insieme questo oggetto, che può essere un bancomat, ma dicevamo già una carta d'identità o magari qualcos'altro. Quali sono state le sfide tecnologiche più difficili? Beh, guardi, la cosa più difficile 8 anni fa, ma anche 2 anni fa, era reperire tutta la strumentazione di bordo che all'interno della carta ormai ne risiede, cioè il sensore, il processore, piuttosto che altre componenti elettroniche, perché la carta è di spessore 0,76 mm, certo. Deve essere flessibile, deve essere resistere al caldo, al freddo, all'acqua, e quindi all'usura. A determinati parametri, e fino a 1 anno e mezzo fa non esistevano componenti al mondo capaci di essere ospitati all'interno di una laminatura di plastica per garantire appunto tutte queste caratteristiche. Quando cominceremo ad avere queste smart card biometriche tra le mani? Ma sicuramente la strada più veloce e più semplice è quella del controllo d'accessi. Per quanto riguarda il sistema di pagamento o di identità, ci vorrà qualche mese in più. Grazie a Cettola, in bocca al lupo. Grazie, che crepi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.